via il motivo numero uno. Queste sono originale, Saulo canta, frutti d'oro, capo terra, aio aio. Cioccolati, signore e signora, sa e ovetta, Saulo canta. Sa, para tranquillo, vigana da se senza canta, nata camandata, nanti mamma mancanta. Sa, rapa tocca rada vai, accumenti di su comandara. Andanta, torranta, espuedo su vestinta fora, sa, strumoni si scupetta, nta, contra sa. Chi ni fai ipocrita, chi ci vuglia su di nai, domanda sa le musina. Musica, tutto su, bius è motto su, sano se cotto su, buono su, malo su, azia e mano su, libera su gorra mo canta usu. Ah, io ne voca guste zichimica, guste su V e due no cosa che a barra scritta, vedo su de gusta terra, rica, sempre zica, vai e cicca chi ci voga sabi nica, ben in gusta gricca, boh. In tranta per sentire salo canne sono su, in tranta per sentire vovreni do tu scoro su, in tranta per sentire salo canne ne sono su, guste zicchi mica terra sarda quattro morzu. In tranta per sentire salo canne sono su, in tranta per sentire vovreni do tu scoro su, in tranta per sentire salo canne sono su, guste zicchi mica terra sarda quattro morzu. I noi brinta zagata zagenti, cunni so cosa rubius e de anima galenti, sempre in prazza con sagrica mal viventi, sempre frullende cicchendi de comprendi, voi ta incontinenti sa gente sempre currendi, noi commenti mai andare ad otta lentamente, ma fondamenta a me muovi sa con che si chi su cursu custu vu e du segara cruz uno segara cruz su chi stion un omu si usmu su su zone poco su gacci vigu gustu sa merda e merda sa tra barra ante su lussu no po tu milioni zi in banca ma se a barra tranquilla come ti ma fa tu mamma un ubicio con gamba dogna di over russa zerranda de sa locanda impari in euro peppi e mamba rapa bona genze propaganda besi de sa manzarda ascuta noi terra sarda in tranta besi di de sa locane sono su. In tranta per sentire vovreni do tu scorso, in tranta per sentire salo canne sono su, guste zicchi mica terra sarda quattro morso. In tranta per sentire salo canne sono su, in tranta per sentire vovreni do tu scorso, in tranta per sentire salo canne sono su, guste zicchi mica terra sarda quattro morso. In tranta per sentire salo canne sono su, in tranta per sentire vovreni do tu scorso, in tranta per sentire salo canne sono su, guste zicchi mica terra sarda quattro morso. In tranta per sentire salo canne sono su, in tranta per sentire vovreni do tu scorso, in tranta per sentire salo canne sono su, guste zicchi mica terra sarda quattro morso.